Io che non so nuotare, ho imparato da poco. Io che non so ballare, faccio ballare loro. E non mi chiedere a cosa penso, perché sono mesi che non penso. Vorrei andare in un posto diverso, ultimamente me ne frega un terzo. Sai quanto me ne importa di una casa in centro, dei mille discorsi in giro su di me. A pensare ai male a volte si fa centro, e a pensare agli altri ho trascurato me. Poi è arrivata l'estate, ho imparato a nuotare. Sto imparando a ballare, sto posto è stupendo, non ci sto credendo. L'abbiamo fatto davvero, potremmo dire io c'ero. Abbiamo preso un aereo, poi siamo saliti più in alto del cielo. E non voglio tornare. E anche se tutto si spegne e la musica scende, tu non ti fermare, continua a cantare. Quel giorno davvero, davvero, davvero, davvero, davvero potremmo dire io c'ero, io c'ero, io c'ero, io c'ero, io c'ero. Io che non so baciare, ho imparato da poco. Io che non so parlare, lascio parlare loro. E non mi chiedere se tutto a posto tu, piuttosto metti meno ghiaccio al Moscow Mule. Non andare in ansia se non posso più, ti ricordo che non mi hai risposto più. Sta finendo l'estate, ho imparato a baciare. Sta imparando a parlare, sto posto è stupendo, non ci sto credendo. L'abbiamo fatto davvero, potremmo dire io c'ero. Abbiamo preso un aereo, poi siamo saliti più in alto del cielo. E non voglio tornare. E anche se tutto si spegne e la musica scende, tu non ti fermare, continua a cantare. Quel giorno davvero, davvero, davvero, davvero, davvero potremmo dire io c'ero, io c'ero, io c'ero, io c'ero, io c'ero. E sotto un cielo d'agosto il sole bacia il mare. E io bacio te, che mi dicevi andiamo via di nascosto, lontani dal mondo, lo dicevi sempre poi. L'abbiamo fatto davvero, potremmo dire io c'ero. Abbiamo preso un aereo, poi siamo saliti più in alto del cielo. E non voglio tornare.